Eccoci qui. Buonasera a tutti, benvenuti a un'altra puntata di Sull'Onda Giallo Blu. Con me i due nostri cari amici tifosi, Pierangelo e Ciro. Buonasera, ragazzi. Buonasera. Bene, allora siamo reduci da questo 3-1 interno con la Nocerina. Per fortuna siamo sempre primi a 9 giornate alla fine. Si possono offendere, giustamente. Volevo dire subito che noi nel corso della serata avremo dei collegamenti telefonici. Sentiremo Peppe Ausillo, che è andato a segno per la seconda domenica di fila, e poi parleremo con Ciccarelli, portiere dell'Inter Napoli, del presidente Di Marino, per farci raccontare un attimino che cosa è successo domenica scorsa a Martina. Allora, Pierangelo, 3-1 al Nocera. 3-1 al Nocera, tutto bene, anche se diciamo qualcuno lamenta la carenza, insomma, di questo, di quello, a me non interessa. L'importante è che comunque continuino questi risultati, anche perché poi dall'altro lato non è che c'è tutta questa qualità. Insomma, una squadra come il Martina, che è costantemente, ripetutamente aiutata da favori arbitrali, insomma, in un modo scandaloso, dove non si può dare due rigori, uno al terzo e al secondo tempo e un altro al 91esimo, sempre nel secondo tempo. Non si può dare la stessa situazione di Vesuviana, quando fu data una punizione in area al 94esimo. Va bene. Quindi è inutile che continuano questi signori, perché poi a un certo punto etichettare un'intera regione come camorristi, come venduti, come straccia, insomma, pensieri, come persone che non hanno nulla di buono, è anche abbastanza offensivo. Diciamo che questi signori devono soltanto sperare di non rimanere in questa categoria, ma se non altro perché se il prossimo anno dovessero rimanere in questa categoria e vengono qui nel girone H in Campania, poi, ma non, questo non è che vuole essere una minaccia, ma proprio per i trattamenti che loro riservano alle squadre che comunque ospitano. Non è un bel atteggiamento, perché fare il guappo in casa propria solitamente è qualcosa di spregevole, perché se tu durante l'andata sei stato trattato con i guanti bianchi, come d'altronde successe a Ischia, perché se non erro era la prima partita, quindi non so che cosa si poteva aspettare, insomma, furono, a parte la loro ospitalità che qui è sempre ottima e per tutti, ma poi in quel periodo tra sole, mare, insomma, poi vorrei ricordare a questi signori, come giustamente mi faceva pensare e ricordare Ciro, che comunque costantemente si pongono la domanda: ma che cosa è Ischia? Dove è Ischia? Io ripeto, vogliamo mettere sul motore di ricerca Google, Altavista, Virgilio, tutto chi più che digitiamo Martina Franca e Ischia, andiamo in Giappone, andiamo, vediamo un pochettino che cosa ne esce fuori. Quindi, se casomai c'è un punto interrogativo, è proprio su quel luogo chiamato Martina Franca. Del resto voi siete inferiori come storia calcistica, siete inferiori come storia geografica e come posizione geografica, siete inferiori come aspetto turistico e come aspetto relativo all'ospitalità, perché noi qui siamo abituati ad essere ospitali, siamo abituati ad avere a che fare con gente che viene da tutto il mondo, e non per questo siamo una delle perle del Mediterraneo, che se ne dica. Quindi avete tutto da prendere da noi. Questo, no, Ciro, come... No, io sono pienamente d'accordo con te. Rimango stupito da certe affermazioni, in primis su quella che praticamente si chiedono questa situazione. Ischia, vabbè, quello lo fanno giustamente perché vogliono mettere un po' di casini. Però la cosa che mi fa più, tra virgolette, rabbia no, però ti fa ridere, che mi fa ridere, è quella che fanno ridere, che si dice che noi in campagna ci aiutiamo. Cioè, io vorrei ricordare a questi signori di andarsi a leggere un po' di storia del calcio campano, ma soprattutto specialmente quello là quello che riguarda l'Ischia Calcio. Io adesso gli ricordo a questi signori che l'Ischia Calcio per ben 8 anni giocato nel campionato di eccellenza Gironi A, il quale prevede che praticamente ogni domenica tu vai a giocare le partite nell'entroterra napoletano. Casertano e Casertano. Allora io vorrei tanto dire a questi signori che voi non avete neanche idea di cosa vuol dire, cosa significa. Figuriamoci se l'Inter Napoli, la Turris, chi che sia, vengono aiutare a noi per fare, cioè, vengono. E poi ricordo a questi signori, caro Cili, che qualche anno fa noi facemmo uno spareggio play-out proprio perché fu venduta una partita. Bravo. Già, io non voglio usare questi termini venduti perché non ho le prove, però fu una partita molto strana tra il Cibilla Bacoli e il Francavilla insieme. E noi fummo condannati a play-out. Quindi, cari signori di Martina Franca, signori, io lo metto tra virgolette, un attimo di rispetto. Allora, io volevo continuare un attimo questo discorso. Scusami, però, cioè, noi abbiamo ogni domenica ne abbiamo avute di cotte, cioè qualsiasi campo che siamo stati, che neanche veramente sulla cartina geografica io non sapevo neanche l'esistenza di Recale, queste Volla. Mi ricordo che quando andammo a Volla chiedemmo ai tassisti portateci a Volla, che dice Volla, eroe Volla, cioè, per fare, e non abbiamo mai avuto un trattamento, mai. Allora io mi chiedo, no? Che cosa ne sapete voi? Bravo. Ma poi che cosa ogni volta uscite voi con questa storia, poi, questi personaggi dicono che noi abbiamo fatto 16 anni di Serie C. Ma che voi che avete fatto? Noi li abbiamo fatti. Ma voi che avete fatto? Un anno e mezzo. Ma il nostro titolo si trova a Palermo. Fummo defraudati, siamo stati la prima e unica squadra ad essere penalizzata dalla Coppa. Ma voi chi siete? E che cosa sapete di noi? Ma voi chi siete? Ma noi non siamo retrocessi sul campo come voi. A noi ci hanno con le carte, con le scartoffie ci hanno eliminato. Cari miei, ma da dove venite? No, ma poi se proprio dobbiamo parlare, visto e considerato che ci troviamo in un campionato, tra virgolette, mi auguro che non sia proprio analogo, perché se non andiamo errati, l'unica cioè una delle squadre che veramente ha fatto parecchie truffette è stato il Neocatra. E se non il Neocatra, da dove viene? Da quale regione viene? Ma io questo... allora non dovete fare, cioè non dovete dire che la Campania, il Napoletano, questo è quello, cioè, perché voi siete stati trattati con i quadri bianchi sia a Dischi sia a Marano con l'Inter. Allora, stati trattati e avete fatto i cani da pecora a Campania Piscindolo, quando addirittura il vostro telecronista ebbe il coraggio di dire che tra i tifosi del Piscindolo si riconoscevano gli ischitani e sarnesi. Io vorrei sapere questo scienziato come ha fatto, in quale maniera ha potuto mai distinguere ischitani e sarnesi, forse dalle differenze dialettali. Hanno anche questo tono, è incredibile. Io seguo un po' Studio 100, no? La domenica, e quindi io lo conosco questo giornalista, perché poi lo stesso giornalista poi il servizio è andato domenica sera, cioè fece una pezza, neanche la peggior pezza per lavare a terra tutto l'Inter Napoli, che non faceva altro che provocare, che non faceva altro che dire, che non faceva altro che stare a terra, però non hanno detto un benché minimo appunto di niente. Sì. Cioè, devono nascondere qualcosa probabilmente. Allora ragazzi, abbiamo in linea Ciccarelli, il portiere dell'Inter Napoli. Ciao Ciccarelli, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Allora, noi stavamo parlando un attimo di quello che è successo a voi domenica a Martina, se magari tu che comunque... Eri presente, sei stato uno dei protagonisti da quando si è visto, insomma, come è andata, perché qui loro si difendono a spada tratta dicendo che voi a Marano li avete trattati, li avete fatti, li avete detti, e domenica la stessa cosa. Io ho forti dubbi, conoscendo Sorrentino, conoscendo poi la squadra dell'Inter Napoli, come è andata in effetti? Insomma, ho grandi dubbi, vorrei sapere effettivamente come è andata questa situazione. No, guarda, tu hai detto bene, noi a Marano ci siamo comportati benissimo, pure perché noi siamo una squadra che non fa pubblico, e la nostra società, con in primis il presidente Di Marino, penso che siamo un esempio di educazione e di correttezza. Assolutamente. Voi ne siete stati testimoni quando siete arrivati a Ischia con voi a Marano con l'Ischia. Assolutamente. Assolutamente. Per quanto riguarda domenica, guarda, c'è stato un comportamento, ti dico la verità, non tanto dei giocatori in campo, perché i giocatori in campo, tu sai, io essendo un giocatore... non mi lamento mai di quello che fanno i miei avversari, perché io non sono un santo. Certo. Però si sono comportati male qualche dirigente, direttori, cioè loro si lamentavano di un particolare accanimento da parte nostra, Ma giustamente noi gli ricordavamo che a Ischia avevamo fatto risultato. Appunto. Ma che cosa volevano? Che vi toglievate dal campo forse? No, e loro si lamentavano di questo accanimento. Noi siete giocati la vostra partita, penso. Come giusto che sia. In più occasioni ci siamo... Diciamo abbiamo battibeccato un pochino, perché noi ricordavamo che comunque pure Ischia avevamo fatto la nostra onesta partita, e poi comunque noi siamo una squadra che togliendo queste chiacchiere di me, comunque noi ci dobbiamo salvare, abbiamo bisogno di fare i nostri 40 punti. Scusami Cicchè, ma quando voi avete pareggiato a Ischia, dirigente e tifosi cosa vi hanno detto? Allora io parlo dell'Ischia. Allora, al di là che i tifosi niente di più e niente di meno, qualcuno addirittura ci ha applaudito, e poi in primis la persona del direttore Crisani, il mister Mandragora e il direttore Malgieri si sono complimentati e ci hanno offerto i dolcini, ci hanno accompagnato al pullman, ci hanno salutato. Come giusto che debba finire una giornata sportiva, insomma. Ma per carità, nulla da dire, noi siamo rimasti esterrefatti dall'accoglienza, dalla gara e del dopo gara, in particolar modo di Ischia. Avendo a maggior ragione che noi con quei due punti persi siamo stati raggiunti e superati. Ma diciamo che ti dico la verità, io pensavo che una piazza importante come quella di Martina, ti dico la verità, sapessero che le gare vanno sempre giocate, e poi loro mi lantavano non so chissà cosa, che noi un accanimento nostro, ma noi abbiamo bisogno di fare 40 punti. Certamente, è come giusto che sia. Uno, e poi due, sicuramente noi non ci facevamo 400-500 chilometri per farli vincere, non lo so loro cosa volevano da noi. Ma anche perché, caro, ti spiego, io ho avuto la sfortuna di vedere i rigori. Prima di tutto io penso che forse sul rigore che ha causato la tua espulsione, non so se tu l'hai toccato, ma mi sembra di no. Quello era l'arbitro. Allora, guarda, ci sono stati alcuni episodi che ci hanno lasciato un po' perplessi ed hanno condizionato la partita. Magari loro in 11 contro 11 poteva finire pure 3-0, perché con i sì e con i ma non esiste. Esattamente. Però sinceramente, non lo so, a te ti risulta che un portiere al 23esimo del primo tempo viene ammonita per perdita di tempo in un campo? Assolutamente, è tutto una... C'è la premeditazione. Io al 23esimo del primo tempo sono stato ammonito perché perdevo tempo nel riprendere il fondo. Però da premettere che sono andato sul calcio d'angolo a prendere il pallone. L'arbitro mi ha ammonito. Poi nell'occasione del rigore io non voglio nemmeno commentare, perché sono parte in causa. Ma parlano le immagini del rigore. Sì, sì, assolutamente. A me sembra che la palla sia andata abbia cambiato direzione, quindi penso che tu l'abbia toccata la palla. Quando quindi... a parte che l'ho toccata, poi all'atto che lui completa il tuffo, guardate le mie mani, sono completamente appoggiate a terra. No, ma quello che io dico, proprio che è chiaro, che la capalla cambia direzione, quindi tu hai toccato la palla. Purtroppo l'arbitro non era in giornata. Esattamente. Non era in giornata. Senti Giuseppe, una domanda mi tocca farla, visto che adesso tu le affrontate entrambe, sia all'andata che al ritorno, Ischia e Martina, quale vedi più solida, più compatta, e soprattutto chi vincerà il campionato? Chi vincerà il campionato non lo so, perché ci sono dei fattori, delle componenti, mancano ancora tante partite. Però può sembrare una risposta preparata, io sinceramente vedo superiore l'Ischia come squadra, come collettivo, come società, come singolo. Poi nel calcio mai dire mai, però sinceramente un giudizio è quello lì, il mio giudizio personale vedo superiore l'Ischia. E comunque questi qua anche come correttezza, non ultimo per correttezza, ma la cosa scandalosa è che comunque questi poi ci hanno sempre etichettato, dice, voi siete camorristi, siete immondizia, questa no, sì, è una frase che è stata ripetuta anche a noi, quindi è una costante per loro. No, c'era un signore un po' cicciottello che non so, lui forse pensava che noi venivamo dal Trentino Alto Adige, lui ci guardava con un tono minaccioso. Certo. E noi tutti quanti, perché tu poi, in particolar modo a me mi conosci, lo guardavamo, sai, incuriositi. Ma che boh, per dire, ma cioè, chi se che boh, detto napoletano, che veniva in mano a Pamundani. E poi, visto che la sua area a noi ci faceva ridere, quando si è reso conto che lui... Insomma, era un pagliaccio più che altro. Lui ha visto, quando noi si è reso conto che noi quasi ridevamo addosso, ha iniziato a fare la vittima e diceva che noi eravamo... dei mercenari, della spazzatura. L'hanno fatta anche con noi comunque, Giuseppe. I napoletani qua, i napoletani di là. Sì, però, quando siamo andati noi volevano... Comunque questo signore è il vicepresidente. Questo è il vicepresidente. Te lo posso assicurare, è giovanissimo. È uno tra i più giovani dirigenti del Marzano. Lui in un primo momento mi sembrava non so chi, poi dopo, visto che noi magari non avevamo nessun timore reverenziale, ha cercato di... Comunque, fare la vittima. Caro Giuseppe, io penso una cosa: questi qua devono soltanto sperare, come dicevo, di salire, perché se dovessero ricapitare nel girone H, poi sarà restituito Parma in focaccia. Poi vediamo un pochettino l'immondizia o non l'immondizia, questo poi è chiaro. Montagne e montagne non si affrontano. Voglio fare un piccolo passaggio: io penso che superiore a loro sia anche la Sarnese. La Sarnese è un'ottima squadra. La Sarnese è pericolosissima. E gioca un ottimo calcio. Sì, premesso che però sinceramente la squadra che secondo me è la corazzata vera e propria di Ischia, a livello societario, a livello tecnico, come pubblico, come calciatori. E poi secondo me, tenendo nell'ambiente, l'Ischia c'ha un po' la simpatia di tutti per l'accoglienza che fate sull'isola. Nessuno, parlando con altri amici che giocano in altre squadre, mi sottolineavano tutti quanti questa cosa, che magari la correttezza dell'Ischia alla fine può pagare, perché comunque chiunque viene ad Ischia viene trattato con i guanti. Queste parole da un lato ci fanno piacere, però dall'altro lato uno dice magari che a volte, essendo troppo buoni... Io volevo tornare un attimino indietro e ricordare che Ciccarelli è stato il portiere dell'Arzanese quando... Sempre grande portiere, grande prestazione contro di noi. quando stavamo in eccellenza, no? E sì. Volevo aprire una piccola parentesi, visto che prima parlavamo tra di noi degli ambienti dell'Interland napoletano, casertano, che abbiamo vissuto in eccellenza, tu lo puoi ben testimoniare che comunque noi come tifoseria e come squadra in Campania non è che siamo ben accetti, quindi... Cioè possiamo, c'è anche sempre quell'odio insomma verso la squadra che sta in Serie C, un po' di astio insomma, questo è un dato di fatto. Guarda, a me molti giocatori chiedono di Ischia perché sanno che io comunque vivo l'isola quasi tutto l'anno, perché io comunque ho casa a Ischia, certo, ho residenza certo. Anche lo sappiamo bene, certo. C'ho residenza e quindi loro mi chiedono, e io dico sempre: guarda, gli ischitani non sono cattive persone, sono persone per benissimo. Solo che giustamente quando giocano sull'isola si fanno del loro punto di forza, però assolutamente non sono persone scorrette e assolutamente non sono persone che cercano contatto con le tifoserie avversarie. No, io... E siccome che sull'isola magari si è numerosi, perché comunque a voi anche in eccellenza comunque il pubblico 1000, 1500, 1200. Per le piccole piazze magari si possono sentire aggredite. Forse sì, potrebbe anche essere una chiave magari di... Magari in una piazza dove si sono abituati a fare 150-200 persone, quando arrivano a Ischia e magari ne vedono 1500-2000 anche a volte, se tu ti senti pure un attimino, come dire, aggredito, un urlo può sembrare chissà che, ma magari non è, perché io poi conosco gli ischitani, ho tanti amici del calcio extracalcisti. Sono persone eccezionali. Io sono troppo di parte per parlare male. Alla fine, caro Giuseppe, io devo dire che comunque contro di noi purtroppo hai sempre fatto grandi prestazioni, hai sempre dimostrato di essere un grande portiere, esatto, un grande portiere. Questo lo devo dire onestamente, e non è una sviolanata. Avevamo la sfortuna di averti contro l'Arzanese, abbiamo la sfortuna di averti contro l'Inter Napoli, quest'anno hai fatto veramente una grande prestazione. Però, grande ti ringrazio. Deve essere un super buono cuore per sé. Però Capuzzo ti fece fornire il capriole, diciamo la verità. Tu sai, qualche volta pure io ho avuto qualche, diciamo, tra virgolette, qualche piccolo battibecco con il pubblico, ma era più un battibecco, ti dico la verità, di sfottò, perché loro conoscono me, io conosco loro. Vabbè, certo. Poi sappiamo, magari tu lo sei una persona più o meno come un tifoso, quindi vai subito in escandescenza. giusto per, a me erano tutte cose giusto per poi... Ma assolutamente, comunque va sempre sottolineata la tua grande qualità tecnica, cioè sei un ottimo portiere, secondo me uno dei migliori della categoria attualmente. Fa piacere queste cose, ti ringrazio. Grazie. Va bene, grazie a Giuseppe Ciccarelli, ti ringraziamo per la disponibilità. Buona serata. Ciao. In bocca al lupo. Ciao, grazie, Crepi. Ciao. insomma, la verità, come si dice, questo è uno dei protagonisti, non penso che debba nascondere qualcosa, Ciro, insomma, ha detto quello che pensava. Vabbè, sicuramente dalla parte avversa diranno, hai visto quello sta Ischia, cosa, che se faranno i soliti, va, ma lui comunque, sa che lui comunque, no, comunque, non lo chiudiamo nello Ionio. Comunque ciò non toglie che, cioè, sta di fatto che praticamente parlano sempre i fatti, infatti, anche quando è andato a giocare il Campania nel girone d'andata, il mister e il presidente della squadra, cioè, dice che loro hanno avuto un trattamento pessimo addirittura la moglie del presidente è stata aggredita da alcune persone, cioè, allora il discorso non è che voi non dovete dire, ma diciamo una cosa onestamente, ma quando siamo andati noi che volevano mettere questo biglietto a 12 euro, esatto, addirittura già da questo sei in ospitale, sei proprio, ti rendi antipatico, perché tu sai praticamente che vengono circa 250-300 persone, che ne dicano loro che non sanno contare, probabilmente hanno bisogno del pallottoliere per fare due conti, perché poi calcoli alla mano, noi non eravamo di meno di 250 persone, assolutamente, sì. Volevi fare l'incasso a discapito di chi a Ischia ti ha ospitato, addirittura un soggetto, non so come si chiamava, aveva a che dire sul nostro lato di stinti, che poi mi disse su Facebook, queste sono le parole, perché abbiamo batti i becchi, poi vedrà il settore, hai visto il settore dove non si vedeva la bandierina di sinistra, non si vedeva proprio, non potevi neanche camminare, che potevi scivolare e farti male, ecco, quindi, proprio lo ma al di là di questo non ci sono le condizioni per poter mettere un settore a 12 euro, io il settore lo voglio mettere a Brindisi, lo voglio mettere a Catarà. No, al di là di tutto questo, cioè, il discorso qual è? Cioè, che noi in ospitale, perché partiamo dal fatto che comunque noi ancora dobbiamo andare a giocare lì, già si metteva a dire, se voi venite con i vostri amici di Fasano, noi non facciamo. Ma scusa, ma perché no, quando siete venuti a Ischia non lo scrivevate pure allora? Perché lo scrivete quando cioè che volete creare un ambiente ostile? Ma a chi fate paura? Ma che cosa volete? Ma chi vi conosce? Ma veramente a chi fate paura? Cioè, noi veramente non abbiamo avuto paura di andare da nessuna parte. Ercolano, ma chi vi conosce? A Torre del Greco. Giocate il vostro campionato e andate per la vostra strada. Voi vedrete, voi state facendo. Io vi ricordo per l'ennesima volta, vi ricordo che l'arbitro di domenica di Molfetta contro di noi. Tu mandi un arbitro della sezione di Molfetta. E qua nessuno ha detto niente. Nessuno ha detto niente. Quindi state zitti e mettetevi un po' la coda tra le mani. Fatevi il vostro campionato e basta. Poi alla fine si contano i punti. Vedremo. Se siete forti, siete forti. Come si dice, se sono rose fioriranno, se sono pesci marciranno. Infatti, sicuramente. Questo è il discorso. Allora, abbiamo... Mike, buonasera. Ciao Mike, buonasera. Sono Pierangelo. Ciao Mike. Allora, che dici, tutto a posto? Tutto bene. Ancora questa sera sto ascoltando a voi e Ryan, fa molto piacere, perché sta sempre, è sempre bello sentirvi. Il piacere è nostro sentire te, che vivi lì, sapere che tu sei a Montreal e stiamo condividendo un attimo insieme, adesso è qualcosa di straordinario. A 10.000 km di distanza. Mike, allora... In effetti ci sono 3 ore di differenza come fuso orario. Appunto. Le 3:30 del pomeriggio. È la stessa differenza che c'è tra noi e Martina. 3 ore, capite? Fuso proprio. No, ma quello sono proprio fusi, comunque, non è una questione di orario, quello sono fusi. Comunque, a me, ragazzi, prima cosa, lasciatemi prima cosa ringraziare la società, perché mi ha omaggiato di questa bella maglietta. Ci hanno fatto una bella sorpresa. È un'emozione, grandissima emozione. Vorrei ringraziare la società, da Crisano, da Antonio Buoninconti, il presidente, il sindaco, tutti che fanno parte di questa società, che stanno facendo vedere che le cose, dei fatti, non le parole, con molta serietà. Mike, scusami, l'hai visto su internet il progetto del nuovo campo? In effetti, voglio dire, se mi date un pochettino di tempo, io step by step, come si dice in inglese, un casino alla volta, e in effetti sì, è stato bellissimo, una bella proponita, un bel progetto. Magari, sarebbe un sogno. Io condivido, Pierangelo, condivido veramente dal primo momento che Crisano ha parlato di azienda. Ho condiviso pienamente con Crisano, perché oggigiorno, ragazzi, se non si fa il calcio in un'azienda non si va a nessuna parte, specialmente nel meridione. Penso che sia una cosa favolosa, spero che tutti quanti, anche l'imprenditoria isolana, ci crede, perché là ci sta una, cioè prima cosa è, c'è molto impiego, ci saranno degli impieghi per gli isolani, perché qua si parla di ristoranti, si parla di molte cose che veramente che è una cosa proprio caro da... Mike, qui giustamente noi vediamo, siamo sempre un pochettino arretrati in tutto sotto questo punto di vista, non c'è dubbio, tant'è vero che io ritorno sempre su determinati fatti, caro Mike. Adesso hanno tolto addirittura altre due corse in maniera arbitraria degli aliscafi, e qui si fanno dei problemi sul campo, si fanno dei problemi sul campo che sarà costruito, che... parliamo delle cose serie, parliamo dei problemi che comunque realmente affliggono gli isolati, parliamo della volontà arbitraria di queste persone di eliminare delle corse e impedire la mobilità, questo è il discorso. Ma guarda Pierangelo, io sinceramente tu mi c'è una proprio questa cosa proprio che è una cosa che pure io l'ho sempre detto, io se ben ricordo quando è incominciata proprio l'avventura a Crisano e Carlino quest'anno si parlava di tutto al di fuori di cose molto importanti, certo. Si parlava dell'Ischia Calcio, ma non si parlava, diciamo, che dell'ospedale Rizzoli c'avevano problemi e volevano tagliare personale, ma si trovava il tempo di parlare dell'Ischia Calcio, di questi nuovi questa nuova società, però le cose essenziali, cose veramente che uno dovrebbe guardare, non si guarda. Assolutamente, sono pienamente d'accordo con te Mike. Purtroppo questo è, mi dispiace, ma questo è Ischia, purtroppo è così, è Pierangelo. Mike, ma come la vedi la squadra, come la vedi la situazione? Io la situazione veramente la vedo buona, io volevo dire, io guardo in casa mia, purtroppo quello che è successo stamattina, per me non ci sto neanche facendo caso, perché io guardo la domenica, io guardo i tre punti che l'Ischia mi deve dare, perché io domenica è per me è un pezzetto del nostro mosaico. Noi, il nostro mosaico è una grande lettera che sarebbe la C. Questi tre punti fa parte del mio mosaico. Io sono d'accordo con te, però quando poi è costante l'accusa da parte di questi personaggi che dicono che qua, che lì, che siamo così, che siamo così, ma pensassero un pochettino a loro, ma perché stanno sempre... Sì. Io voglio domandare una cosa, quando si è, tutto il campionato italiano è stato fermo e hanno giocato soltanto la partita Martina Franca Nardò per creare il gap psicologico, per creare questa differenza che sì. Si è a zero, ma tanto era tutto, allora era tutto a posto. Allora era tutto permesso. Questo è il discorso mai. Questo non è che a me mi interessa, perché a me del Martino non me ne frega niente. Ma è una buona squadra, lo sappiamo, nessuno mette in dubbio le qualità di Picci, di Amodei, di Gambuzzi, di... No, per carità. Però alla fine dei conti fatevi il vostro campionato. Tanto è vero che avete avuto per l'ennesima volta un rigore al 91esimo, addirittura qualcuno dice al 93esimo, e avete vinto la partita in maniera subito. Sì. Questo è il discorso. Sì. La realtà è questa qua. Mike, scusami, ti volevo dire una cosa. C'è Nicola Trani che dice su Facebook appena poi di andare a guardare la sua bacheca, perché ha pubblicato la foto. Sì, grazie, eh? Sì, senz'altro. Perfetto. Ringrazio Nicola Trani, andrò a vedere subito dopo la vostra chiamata e andrò a vedere sicuramente. Ma siamo noi che dobbiamo ringraziare. Comunque è un piacere vedere che una persona che sta così lontano si interessa, e poi voglio rimembrare per l'ennesima volta che grazie a te e grazie a Giancarlo ogni domenica entrano 3-4 ragazzi, e veramente avete fatto una cosa da esempio che molti ischidani non hanno fatto, veramente siete grandi. Ma in effetti quella è una cosa che noi lo facciamo con il cuore, speriamo e spero che gli altri isolani che abitano fuori dell'isola, che seguono l'Ischia Calcio, ci possono seguire, perché è una cosa bellissima e viene dal nostro cuore, specialmente quando le cose sono ben fatte. Tu lo sai, Ivan, Pierangelo, che sono 3 anni che io sia Giancarlo che collaboriamo con... L'avete sempre fatto, infatti, non è stato solo quest'anno. Eccetera. Quest'anno veramente stiamo avendo delle soddisfazioni da parte di questa società, perché lo capiscono che noi facciamo qualcosa per l'Ischia Calcio e ci teniamo. Ti assicuro che lo capiscono e hanno sempre parlato bene di voi, infatti veramente siete considerati, i vostri gesti non sono passati a sono apprezzatissimi. Babbo Mike, noi ti salutiamo e ti ringraziamo nuovamente, è sempre un piacere averti qui con noi. Scusami Pierangelo, due sole cose volevo dire. Prima cosa, visto che sono in linea e sicuramente ci sta ascoltando, volevo ringraziare Flavio Trani, che si è fatto partecipe di questo, si è fatto promotore di emozione, meno Lauro pure sì. E come tutti quanti diciamo che hanno partecipato di far sì che posso vestire giallo blu anche a Montreal. E un'altra cosa, Angelo, Ivan, volevo dire anche, stavo ascoltando domenica, perché per me domenica non sto a Mazzella, però sto davanti a un PC, computer. La cosa che io non trovo veramente che fa male è sentire che si parla sempre di questo gioco, non gioco dell'Italia. Ma basta, sì, questa storia, basta. È vero, purtroppo intervengono sempre le persone che devono distruggere. Angelo, voi la direte direttamente, io la vivo indirettamente. No, tu hai ragione, io sono d'accordo con te. Purtroppo io vivo lontano e sento queste cose, guarda, che fa male. Sembra che quest'anno è l'unico caso in cui una squadra di Serie D che sta vincendo il campionato non pratichi un bel calcio, come se magari il Noicattaro di Del Rosso nel 2006-2007, oppure la Versa che aveva a Sergio in panchina, o il Brindisi di Silva, oppure la stessa Arzanese di Fabiano l'anno scorso giocavano un calcio stratosferico, o lo stesso Neapolis di Mandragora giocassero un calcio champagne. Signor, qui, ma anche l'Ischia, 6 anni fa, quando aveva Buonocore, Tomeo, Capuzzo, Manzo, formidabile, non è che giocasse questo calcio, ma lo sappiamo. E invece bisogna sempre trovare la pagliuzza nella trave. No, però l'Ischia la pagliuzza nella trave, Ivan, dobbiamo aprire un poco. Io preferisco il no gioco, voglio festeggiare il 6 maggio. Caro Mike, io ti volevo dire solo una cosa: se ben ricordi l'Inter che ha vinto tutto e tutto, bravo, cioè su tutti i campi. Cioè, a mia modestissima impressione, cioè non è che esprimeva chissà che calcio. Intanto ha vinto 3-4 scudetti, ha vinto Coppa dei Campioni, ha vinto Coppa Intercontinentale, ha vinto Coppa Italia, ha vinto tutto. Non offrendo nulla di che. Cioè, facendo giocare gli attaccanti anche a terzino, oppure. Però purtroppo il calcio è questo. Il calcio sai che cosa vale? Vale quando vinci, non quando fai bene. Questa è la realtà. Questa è la realtà, è basta. Pienamente. Vale la vittoria, vale i 3 punti. Ma io mi ricordo il grande Pierino Cucchi, 1-0, e si è finita la partita. È finita la partita. E con Pierino Cucchi abbiamo fatto il più grande risultato della nostra storia. Esatto, con il quinto posto. È uscì poi, voglio ricordare agli amici di Martini, che venne il Palermo e si prese il titolo dell'Ischia Calcio. L'Ischia Calcio non è mai retrocesso, dice agli amici di Martini, a differenza loro. Mike, un'altra cosa. Mike, noi non ci siamo dimenticati il tuo desiderio che tu vuoi sentire a Cerminare. Ti prometto che la settimana prossima lo telefoniamo, va bene? Beh, guarda, Iva, ti ringrazio molto perché... Lo so che ci tieni particolarmente a questa cosa. No, perché io con Cerminare ci siamo sentiti, diciamo, scritti, allora... Ma non ci siamo dimenticati. Infatti proprio prima parlavo con Pierangelo e con Ciro di questa cosa, che la settimana prossima sicuramente lo faremo. Sarà un piacere sicuramente anche per noi, piacere intervenire per questo, perché ha sempre parlato bene dei noi tifosi dell'Ischia Isola, allora sarebbe qualcosa di bello, sai? Va bene, vi ringrazio molto, a te Mike, sempre grazie, a te, sempre grazie a te, grazie a te, ciao Mike, buona giornata. Intanto io voglio salutare i nostri ospiti, oltre a Ivano Bondomo ci hanno raggiunto anche Bondonno, il quale anche lui comunque ha parecchi tifosi dell'Ischia sparsi per l'Europa. Voglio salutare il principe Morris e la nostra amica Pamela, che finalmente ci ha reso questa gioia di visitarci. Dovremmo avere un'altra telefonata in linea. Mauro, chi c'è? Non si sa ancora. Chi è? Pronto? Pronto? Pronto? Sì, chi è? Agostino. Un altro tifoso che è dall'America. Ciao Agostino, come va? Tutto a posto? Il famoso Augie Sass. How are you? I'm fine. No, hai già sentito a Mike, ma che cazzo? Ma che gioia sta telefonata. Mannaggia. Insomma, questi sono già i tenuti della web radio, però questo, insomma, dove stai precisamente tu? Dove stai? A New York? Dove stai? A New York. Figurati un po', ci hanno chiamato adesso da Montreal, adesso ci chiamano da New York. Solo Giancarlo. facciamo tutta la... Gio. Agostino, i nostri amici ischitani non chiamano, cioè chiamato lui che sta a 15.000 km di distanza. No, no, ma voi ridete, quello è vergognoso, cioè noi facciamo telefonate. Ma loro perché vivono da lontano. No, ma allora questi ragazzi sono eccezionali, guarda Agostino, tu me l'avevi preannunciato questa telefonata. Stai seguendo l'ISCA il radio, insomma, così. Lui voleva sapere della difesa, mi dicevi oggi sulla chat, giusto? Ma non ho capito la tua domanda, che vuol dire voglio sapere della difesa, allora, gli infortuni? No, ti dico la verità, io stanno a seguire solo i risultati, vero? Non a seguire la squadra proprio... Come è composta, diciamo. Allora, noi abbiamo una difesa, abbiamo due under molto forti, abbiamo Finizio a destra che è un 92 e Tito a destra a sinistra che è un 93. Adesso hanno preso da poco un altro under, si chiama Piscopo, che può giocare indifferentemente sia in 92. Difesa che 92, due. Che può giocare indifferentemente sia in difesa, però lui nasce come centrocampista. Poi come centrali difensivi siamo messi molto bene quest'anno, abbiamo questo Micallo che ha fatto 170 presenze in Serie C, e poi abbiamo un certo Gianni Di Meglio che non te lo devo presentare io, abbiamo Scarlato che ha fatto 50 presenze in Serie C. Insomma, abbiamo una difesa, sebbene comunque prendiamo parecchie reti, ma siamo sempre in emergenza, siamo sempre costretti a fare la conta con gli infortuni, però ti assicuro che presi singola, è stato preso adesso al mercato di gennaio questo Rainone, che è un giocatore proprio, è un giocatore di categoria, ha giocato solo in poi Serie D. Poi ci sta pure Chiaril, comunque c'è Chiaril che è un validissimo elemento, e poi non dimentichiamo che come under abbiamo uno tra i migliori portieri, se non il migliore portiere Incarnato, che comunque si sta ben comportando quest'anno. Questo è per quanto riguarda la difesa. Poi centrocampo e attacco pure siamo ben messi. Quindi dobbiamo solo credere in questo progetto, e quindi non ci resta che andare a tifare per la nostra Ischia. Comunque per il resto abbiamo la classifica, la stai seguendo, siamo a un punto su questo Martina, due punti sulla Sarnese, sembra che ormai il duello si sia ridotto a noi tre, a 9 giornate dalla fine del campionato. Tra 2 mesi esatti finisce il campionato, il 6 maggio, ma Agosti speriamo che festeggiamo, magari viene dura la merda. io penso che ce la facciamo, perché mo quando abbiamo acquistato questi 2 o 3 giocatori, diciamo la verità, la squadra si è cambiata, si è fatta più forte, diciamo, si è più stabilizzata. Ma scusa, ma il modo, guarda, è troppo bello sentirti parlare in dialetto, è una cosa eccezionale. No, effettivamente la squadra si è rinforzata, c'è da dare atto a questa società che ha saputo intervenire egregiamente sul mercato. Da lui ha preso dei giocatori che noi nelle passate gestioni veramente, ha preso Tommaso Manzo, hanno preso Sarli, hanno preso Mazzeo, hanno preso questo Ercolano, del quale veramente noi tifosi ci stiamo innamorando calcisticamente, perché veramente... Ah boh, Ivan si sta innamorando pure per altre cose, comunque. No, Ciro, questo dirà dello per te. Non lo dica a nessuno. Siamo contenti di come va la squadra e di come è stata allestita la squadra. Così, questa è la realtà, è la verità. Tu verrai quest'anno qui a Ischia? A maggio devi venire, così? No, è sempre di che, ma è difficile. Io si venga a giovedì sulla US, che posso venire. Perché poi le scuole stanno chiuse. Io tengo 3 creature, questo è un problema, però devi stare per forza lì, allora non ti puoi muovere. E te voglio dire, state facendo una bella cosa questo programma, e voi ci informate, perché io penso ci stanno assai tifosi ischitani dal mondo che poco a poco si mettono a ascoltare questo programma, e è una cosa buona, una cosa bella proprio. È stata un'idea che è nata così proprio per gioco, sicuro. È una cosa per tutti quanti, insomma, che hanno a cuore le sorti dell'Ischia, è anche un modo per stare un po' più vicino a casa. Per fortuna sta riuscendo, stiamo riscontrando, insomma, che piace, nonostante, insomma, sembra 3 sci, ma ossia. No, però sì, quando Ischia va in Lega 2, ci vogliono i tifosi, sì. A tutte parti che hanno a supportare questa squadra. Logico. Sì. Speriamo bene, così speriamo che sia un augurio. Va bene, allora. Ti ringrazio, grazie della telefonata. È stato veramente un piacere. Un grande piacere. Chiamaci quando vuoi. Grazie, Agostino. Ben graditi, va bene? Va bene, ciao. Ciao, grazie. Ciao. E queste sono le cose che comunque fanno piacere. sono le cose che fanno piacere, perché è bello sapere che comunque ti seguono anche dall'altro lato del mondo, poi persone che hanno a cuore le sorti dell'ISCH. Che guarda, stasera chi è Giancarlo? Probabilmente è Giancarlo. No. Vediamo un pochettino chi è Giancarlo. Pronto? Giancarlo. No, non mi dici come regalo. Giancarlo. Non sono Giancarlo. Perché? Nunzio. Pasquale, massaggiatore. Ehi, Pasquale. Che piacere. Pasquale Galizia. Ex massaggiatore di Ischia. Come andiamo, Pasquale? Tutto a posto? Perché Ivan non ti sento per il computer. Come non mi senti? In secondo momento la voce. Ma mo mi senti? Devi abbassare la voce del computer e ci devi sentire per telefono. Togli il volume. Togli il volume del computer. L'ho tolto proprio. Ma ci senti? Ecco. Sì, ora mi sento per telefono. Sì. Comunque niente, siamo io, Pierangelo e Ciro, tutto a posto. Tutto a posto. Voi mi fa piacere, state riscontrando un grosso successo. È una cosa. Radio proprio a morire. È che i scimo vanno sempre come si dice. Vanno sempre annanzi. E questo è il fulgido esempio. Ma facciamo sentire una cosa, ma sto campo vuole fa meglio lo San Paolo allora. Ci manca sulla. Ah, ci paghi sulla di tu, Robby Lusso, ma no, a me mi fanno morire, capito? No, mannaggia, mi stai rivestricio tante cose, non posso dirci perché a me mi fanno morire, solo questo mi fanno morire. Guarda, ma che vuol dire ti fanno, cioè che sei contento per questa cosa? No, sono contento da un lato, sono contentissimo dall'altro, però dall'altro a me mi viene a ridere, capito? Perciò, ma comunque non fa niente, io sono tifoso dell'ISCH e quindi faccio come voi, spero solo che le cose vanno benissimo, no bene. Purtroppo Pasquale, noi non sappiamo tante cose. Pasquale, non lo so, diciamo se è una cosa. No, perché comunque ci hai incuriosito con questa tua esternazione. No, che vuol dire? Potresti dire tanta cosa. No, non mi preoccupo. Noi rimaniamo sempre tifosi, non so, tante cose della società non le sappiamo, Pasquale. Ma soprattutto tu noi hai lasciato un ottimo ricordo, perché tu stai con noi dal 2005 effettivamente. Hai sempre lavorato in maniera egregia, quindi. No, ma voi le cose le sapete, le so come le sapete voi, so pure io, per l'amor di Dio, solo. Sulla terraferma è diverso, le voci arrivano diversamente, ma io non credo, perché oramai state là. Io sono convinto che nessuno voleva il primo posto, perché oggi solo l'Ischia può perdere il campionato. E basta. Okay. Vabbè, ci sono delle cose, speriamo bene. Ma no, ma che le cose là ne pensate proprio, non ne ho avere proprio. Voi scusate, voi da quanto tempo per il tuo pallone? No, credo forse più o meno quando faccio pallone e quando vengo pure, che tengo qualche anno un po' più di voi. Però vi dico una sola cosa, il mio campo va in 11 giocatori. Ah, sicuramente. Ah, l'arbitro può chiamare mai 11 rigore? Assolutamente no. Bravo. Allora noi l'avanti ci sono delle persone che basta servirli decentemente, no bene, decentemente, ti fanno gol. Questo sicuramente. A cose, come si chiama? Ercolano che fa collo pure per tutto quanto riceve un chilo, no, riesce a spiccicare un pallone. Sì, questi poi sono i soloni. Benissimo. Uh-huh. Abbiamo ritrovato dopo stroppole e tiritepola Marco Mazzeo, se non gli dicevo io di fermare, Mazzeo manco si fermava. Vabbè, ma questa, Pasquale, la tua professionalità è indiscussa, anche perché Marco ve lo può dire, se Marco ha fatto qualche altra partita era solo e semplicemente perché lui voleva fare gol e voleva mettersi in evidenza. Lo so. Quindi lo sapete, lo tiene in due sangue. Marco è l'attaccante così. Da un lato è anche da elogiare, perché comunque esatto, alla fine... Poi a un certo punto ha detto basta. A un certo punto ha detto basta, che siamo andati insieme a fare le infiltrazioni e nemmeno con quella ci siamo riusciti. Quindi pensa un pochettino. Pasquale, ma tu adesso sei in qualche squadra o stai? No, sto in attesa, perché tu lo sai, il messaggiatore non è come il giocatore. A me mi hanno totalmente rovinato. Io quello che rimprovero a questa società è una sola cosa, che a parte le sciocchezze, fossariga, annemisemmiezze, vabbè, lasciamo perdere, che potevano dirmelo un pochettino prima, forse avevo ancora il tempo, è uno. E poi, insomma, così all'improvviso, dopo Natale, a dire tu non servi più, insomma. Beh, questo sicuramente. Dare buon servito a una persona che voi sapete come sono fatti. No, vabbè, Pasquale, tu devi sapere che qua Ciro e Ivan hanno voluto che tu comunque ti hanno sponsorizzato quest'estate, diciamo la verità. Ma io questo lo so, io perciò resto amico come sono amico di tutti, mi sento ancora pure con Ivan, quindi figurati. Perciò dico, cioè, a parte adesso queste situazioni che sicuramente... Io, noi... io, io noi rimaniamo sempre affezionati. Io quando te ne andassi la prima volta veramente mi dispiacque tantissimo e mi è dispiaciuto anche la prima volta, fu una scelta mia, mi ricordo tu stavi sugli spalti, ci salutammo, bravissimo, eravate 10 di voi, mi applaudiste, quindi figurati se non benissimo. Fu una scelta mia perché mi trattarono male economicamente. Quest'anno mi ero accontentato, capiscimi, mi ero accontentato e volevano, e dopo ancora volevano che io rimanessi anche il sabato, la domenica, il ritiro a Ischia, come mo. Pasquale, purtroppo siamo, ne abbiamo anche parlato, noi siamo tifosi, a noi dispiace umanamente per questa cosa. Il tuo valore è indiscusso, ti ripeto, tu sei stato il primo. Tu hai lasciato un ottimo ricordo tra di noi. Io parlo solo per questo, io se chiamo, ti ripeto, mi avevo promesso di chiamarvi perché volevo salutare, anche perché per dare... Cioè, veramente un in bocca al lupo all'Ischia, perché non riesco a venire, perché per me venire significa avere un pizzico, sai, a dove? Maggio, dai Pasquale, a maggio. Quindi io però ti capisco Pasquale, sicuramente non ti posso biasimare. Spero solo una sola di riuscire a venire con la Viribus e festeggiare le due cose, che poi con la Viribus ci sta un mio carissimo amico che è Costaiola. Fa il direttore, quindi spero solo di venire lì a vedervi l'ultima partita. Speriamo che siamo, che voi possiamo la vittoria, festeggio. La Viribus festeggia la salvezza. Speriamo così che sia una bella passerella, Pasqua. E quindi sicuramente per venirvi a salutare, perché io ti ripeto, farei sicuramente qualche salto a Ischia, però non me la sento proprio di arrivare. Io ti capisco. Coppa chi lo campo, capì? Perché mi sento, sai come? Un nodo alla gola, perché è chiaro. Ma no, a parte per quello che ho fatto, vabbè, ma è proprio perché lo sapete cosa provo io per l'Ischia, no? Quindi è comprensibilissimo. Esatto, è come un tifoso come mo avete parlato con due tifosi che stanno da fuori, loro farebbero il possibile per cercare di venire, però non possono, che stanno lontani. Io potrei venire sicuramente, però non vengo per altre questioni. Altre questioni che non stanno, perché guarda, ti dico una sola cosa. C'è stato un lecchinaggio che tu non puoi credere. Cagnolini, chihuahua che camminano per mezzo alle gambe, che non può credere. Vabbè, ma questo Pasqua è un po' in tutti i posti di lavoro, ti posso assicurare. No, ma figurati. No, ma io il problema, sai qual è? Sei Pierancio, tu? Sì. Pierancio, sai qual è il problema? Cagissimo, non devo vestirmi. No. Allora, a me dire, un coppa la lingua non mi piace. Allora, quando viaggio vicino alla voce, io tic. Capito? No, a me non me ne fotte proprio. Ma l'importante è che poi le cose si chiariscono. Però a me ma io faccio il tifo per l'Ischia calcio. Basta. Pasqua, a questo ci fa piacere. l'Ischia, e basta. Poi per me possono venire tutte a dirigenza possibile, immaginarmi, non fanno altro che fare bene per l'Ischia. Pasquale, va bene, speriamo che questo strappo si possa ricucire magari proprio a maggio, dai. Ok. Grazie per la tua gratita telefonica. Ciao, buona serata. Ciao, Pasquale, grazie. Bene. Allora, ragazzi, noi dobbiamo ricordare questa cosa della donazione di sangue. Hai donato, Ivan? La doni tu, la dici tu la cosa della donazione? No, veramente. Il 18 marzo si prosegue con questa cosa della donazione alla clinica San Giovanni Giuseppe dalle 9 alle 11.30, ricordo, il 18 marzo, insomma, tutti coloro che volessero... Il 18 marzo noi andiamo a Casarano. Il 18 marzo noi spero di esserci anche io. Sì, sei anche tu, Ivan. Ma speriamo bene. Sì, dai, non dipende... Casarano. Sono 1100 chilometri andata e ritorno. Casarano, ad esempio, è una... Scusami. Dovremmo avere... C'è il presidente... Dovrebbe esserci il presidente dell'Internapoli in linea. Un attimo su... Eccoci qua, un attimo. Buonasera presidente. Buonasera presidente. Allora, no, noi stavamo discutendo abbiamo sentito prima anche Ciccarelli, il vostro portiere, insomma, che ci ha raccontato un attimino quello che è successo domenica. Diciamo quello che è successo più in campo. Lei cosa ci può raccontare quello che è successo al di fuori del rettangolo di gioco? Ma io sono abituato nel calcio a non parlare mai di quello che succede al di fuori del rettangolo di gioco, perché obiettivamente a me fa piacere vedere, valutare e parlare del calcio giocato, e quindi mi limito a dire che forse sicuramente è stata una partita assolutamente falsata, ma non tanto probabilmente dall'ambiente, ma soprattutto da una terna arbitrale che... Chi mi conosce, sono troppi anni che sono nel calcio, non ho mai parlato di arbitri, però mi sembrava quasi prevenuta nei nostri confronti, tant'è che la prima ammonizione di Ciccarelli è stata semplicemente perché in uno stadio dove non erano presenti la raccattapalle, lo stesso Ciccarelli si apprestava a prendere la palla per rimetterla in gioco, l'arbitro decideva a fare veloce e lo andava ad ammonire, quando poi la palla stava non sulla linea di porta verso l'esterno, la parte posteriore alla rete, ma laterale alla rete, cioè il fallo laterale. Diciamo che praticamente se quella è il Martina, obiettivamente noi l'abbiamo già battuto all'andata, sì. al ritorno ci hanno rapinati. Noi siamo una squadra assolutamente nella normalità bassa di questo campionato. Se questo è il Martina, sicuramente i miei amici dirigenti dell'Ischia e i tifosi tutti credono che sicuramente devono preoccuparsi più della Farnese che del Martina, molto onestamente. Se poi è stata una partita, sono state due partite un po' particolari, due partite storte, allora è un altro tipo di discorso. C'è Ciro Curci che le vuole fare una domanda. Presidente, le volevo chiedere una cosa, ma lei ha fatto presente all'arbitro, a chi per esso, di quello che ha visto? Ma l'arbitro è andato assolutamente in confusione, tant'è che alla fine della partita ci ha espulso il numero 6 per un battibecco che ha avuto il numero 16. Quindi stava proprio in bambole. Cioè stava in bambola. Allora io dico sempre, quando una persona sta in bambola è meglio non avvicinarlo perché arreca problemi. Tant'è che a noi forse quella partita ormai è finita ed è finita 1-0, ma probabilmente i danni maggiori li ha regati per la prossima. Certo. Perché al di là dell'infortunio di Borrelli che è grave, la distruzione al ginocchio, teniamo 3 giocatori squalificati. Sì, quindi sì. L'arbitro oltre il danno c'è la beffa, certo. Come capita solitamente nel calcio. Okay. Ma al di là diciamo del nostro enorme impegno, perché noi onoriamo tutte le gare, l'abbiamo visto la Ischia, insomma, che abbiamo fatto 2-2, siamo una squadra che praticamente noi conosciamo bene, noi dirigenti, che noi ce la giochiamo con tutti, ma chiaramente la possiamo perdere con tutti, anche con gli ultimi classifici. Allora proprio in questo momento particolare, insomma, in una gara dove probabilmente è determinante per la nostra stagione, andiamo a giocare con 3-4 elementi in meno, elementi certo. Poi di calibro tipo Ciccarelli, signore, lo stesso Borrelli, ma diciamo, l'ossatura della squadra comunque. Cioè, anche diciamo, perché presidente, perdere anziani che teniamo, quei pochi anziani che teniamo. Perdere Ciccarelli, anche se il giovane portiere si è ben distinto domenica, però perdere Ciccarelli è un qualcosa, perché Ciccarelli è una storia cinesca. Peppe con noi ha avuto una seconda giovinezza. Si è saltato e sta avendo un certo costante rendimento sin dall'anno scorso, quindi diciamo che Peppe è l'anima di questa squadra, con tutti i pro e i contro, perché domenica si è beccata la prima ammonizione di me, insomma, di vicino all'arbitro, a me mi sta bene un 0-0, è lui che deve sollecitare eventualmente, loro devono mettere a cartavallo l'arbitro, insomma, è andato e l'ha ammonito. Poi dico, chi conosce la nostra squadra? Ecco, noi abbiamo giocato ad Ischia, pure là sicuramente una partita importante, soprattutto per l'Ischia, eccetera. Cioè, non siamo una squadra da poter avere 3 espulsioni e 8 ammonizioni. Caro Presidente, io le ricordo una cosa, che Manzo fu mandato all'ospedale con la partita dell'Ischia, De Rosa fu mandato all'ospedale, è stato 3 mesi fuori, circa, 2 mesi fuori. La verità, io ripeto, non parlo mai da quello... Assolutamente, però la loro inospitalità... Però la cosa che forse era più fastidio, non tanto la reazione spropositata di quel dirigente là che stava in panchina, ma non contro... ci ha menato, perché obiettivamente noi buoni sì, ma fessi no, assolutamente, con la bocca verso Napoli, perché poi Napoli è la nostra città, quindi lui si è avuto frasi ingiuriose verso la città di Napoli, non verso lui, anche se erano rivolte a noi indirettamente. Vabbè, ma l'hanno fatto quello che mi ha dato fastidio è l'atteggiamento di quel Chiesa, cioè un giocatore di, diciamo, che ha giocato in categorie importanti, che gioca contro una squadra che c'ha in campo 2,93 2,92 e un 91. Sì. Avere un atteggiamento così aggressivo. No, ma al di là aggressivo, proprio indisponente anche verso la panchina. Infatti ha fatto espellere il massaggiatore, ha avuto discussione con il dirigente accompagnato. Secondo me non è professionale, perché nel calcio è vero, i risultati sono essenziali. Proprio nell'atteggiamento sia la cosa migliore. Noi teniamo, deve parlare nonostante tutto. La prima cosa che ho detto ai miei calciatori, a me non è piaciuto come abbiamo perso, cioè onestamente perdere la lingua, perdere la faccia mi dà fastidio, cioè noi di là voi sapete, quando l'altro prende la decisione, siccome gli ambiti come presidenti sono tutti scemi, me compreso come presidente, cioè che voi andate a protestare verso un arbitro che ormai sta in bambola e vi pigliate una tutta l'espulsione a partita finita, secondo me è da matti. Sì, cioè, sì. Quindi automaticamente, come io dico, i miei calciatori non tanto, perché come impegno credo che gli dovrei fare una statua ad ognuno di loro che ha giocato. Comunque presidente, io vorrei dire questo: la vostra squadra ad Ischia si è distinta sia per organizzazione di gioco e per impegno profuso in campo, ed è normale che sia così, perché poi lo sport deve rimanere sport, e quindi proprio in virtù di questo chi onora lo sport. Dei sacrifici per divertirci, infatti con il vostro direttore Nicola, come solitamente succede anche lunedì, mi sono sentito, non gli ho detto gli episodi, gli ho detto Nico, se non vincete questo campionato, se la vostra rivale il mattino, significa siete di matti, perché stamattina messo lì il 9 lui, con un attaccante solo un 93, continuava a tenere quattro difensori inchiodati. Sì. Poi alla fine hanno vinto, sì, è vero, ma hanno vinto con un secondo rigore. Con un secondo rigore che secondo me, guardi, signor caro presidente, poteva tranquillamente non esserci. Io anzi sottolineo, non c'era. Adesso lasciamo stare la parte dell'Ischia. Assolutamente. Io credo che probabilmente la cosa peggiore è la cattiva fede nel momento in cui c'è stato l'impatto, perché io che seguo attentamente le partite, e ripeto, io non ho mai parlato di arbitri in 23 anni di calcio, certo. Però la cattiva fede nel momento in cui c'è l'impatto, cioè non si è ancora avverato l'impatto, la peggiore già stai verso il dischetto. Certo. E le voglio dire una cosa, io ancora lo devo appurare perché non ho avuto tempo per problemi di lavoro. Se eventualmente, dopo una condizione di gara incredibile, io ho subito a Trani il furto del secolo, perché qua non è stato niente rispetto a quello che è successo a Trani, ma parlo sempre della Terna, mi mandano gli stessi assistenti di Trani, allora c'è qualcosa che non va. A noi domenica hanno mandato un arbitro di Molfetta, ha capito? Questo è il discorso. Noi domenica che abbiamo giocato. Ma io dico una cosa: se professionalmente una persona è preparata, può andare anche ad arbitrare l'Ischia, l'arbitro di Ischia, o l'Inter Napoli, un arbitro di Napoli. Sì. Ma dopo quello che è successo a Trani con gli assistenti che hanno fatto delle cose esageratamente abominevoli. Ma fuori dal comune, palla al centro per noi, palla indietro, il nostro difensore rinvia, colpisce un avversario, calcio di rigore, io non ho mai visto nel calcio. E rimandarmi gli stessi assistenti, allora c'è qualcosa, Che non va. Senta presidente, la stessa domanda voglio fare a lei che ho fatto prima. Ripeto, io parlo dell'Inter Napoli, non parlo di un complotto a favore del Martino contro l'Inter. Assolutamente. Io parlo praticamente dell'Inter Napoli, cioè credo che praticamente la società, se con tanti sacrifici arriva a fare la Serie D, molto umilmente dice, per bocca del presidente, noi siamo gli ultimi della Serie D, se attualmente siamo praticamente occupiamo la posizione fuori dai playout, è un miracolo. Sì, però abbiamo capito perfettamente, quindi i vostri sacrifici non debbono essere vanificati dalle scelte scellerate. Cioè, praticamente noi, è vero che siamo andati a Martino come siamo andati a Ischia, come andremo a Sarno, ma noi ci andiamo a giocare lo stesso, quindi non ci dovete penalizzare, anzi io credo che nel dubbio un arbitro dovrebbe avere il buon senso di favorire un attimino figli scemo, come si dice a Napoli. Così. Senta presidente, le stavo chiedendo prima, lei, visto che ormai ha giocato sia con noi che col Martina, qual è la squadra che l'ha impressionato di più? Insomma? Ma sicuramente l'Ischia nel computo di andata e ritorno, anche se nella partita di ritorno mi aspettavo qualcosina in più, onestamente, però nel computo di andata e ritorno rispetto al Martina non c'è gara, non c'è storia. Però devo essere onesto su questo. I dirigenti del Martina, prima della gara, sapendo del rapporto che c'è tra me e Nicola, mi hanno detto: presidente, il vostro amico vincerà il campionato perché è più forte di voi. Come squadra. Lo prendiamo Però è stato detto in maniera sincera, perché è stato detto in maniera preoccupata. Sì, no, presidente, io volevo chiedere un'unica cosa, non so se lei era presente a bordo campo quando è stato espulso Picci, se ci poteva delucidare un po' della situazione dell'accaduto. Ma guarda, mi è stato raccontato, praticamente questo Picci provocava continuamente, come ha iniziato con il portiere Ciccarelli, poi ha provocato i difensori. Ha provocato un po' Andrea Giuliano. Si è parlato di uno sputo, Picci ha imputato ad Andrea Iuliano. Ah, ecco, allora è vero. Che quindi, poi alla fine, ma quindi praticamente... è stata espulsione diretta, non a doppio sì, sì. No, no, è stata espulsione diretta, sia a lui che dovrebbe avere, ecco, più di due giornate di squalifica. Io non so come si regolano nel regolamento. Il regolamento dello sputo dalla Serie A alla terza categoria parla di minimo tre giornate. Minimo tre comunque giornate. Nella confusione totale, la cosa più bella, sa qual è? Che il nostro difensore signore faceva notare all'assistente che questo piccio aveva sputato. Sì. L'assistente, non contento di tutto quello che ha combinato, sì, perché in un primo momento non se ne è accorto niente, ha richiamato l'attenzione dell'arbitro per espellendo signore e picci. Mentre il signore non c'entrava, perché praticamente... Ma voi di corso non potete fare in questo caso? No, non si può fare prima perché non sappiamo ancora cosa decide l'arbitro, cioè cosa decide il giudice. Cosa scritto nel referto. Quindi automaticamente, poi vedremo insomma quello che deciderà. Credo e mi auguro che perlomeno sotto questo aspetto non siano... ripeto, signori, questa cosa non c'entrava. No, ero curioso di sapere l'espulsione di Picci da che cosa era, perché ho saputo dello sputo, però non Picci ha avuto una discussione con Andrea Iuliano, stranamente, perché Andrea Iuliano è una persona che probabilmente se non ha giocato in palcoscenici simili al padre, perché è un po' carente nel carattere, perché tecnicamente non ha nulla da invidiare a nessuno. Praticamente stranamente, perché è una persona che, ripeto, caratterialmente non ne fa di discussioni, non ama polemizzare eccetera, ha avuto una discussione con sto Picci che per tutta la gara ha minacciato a tutti. Ma Picci anche la prima giornata qui a Ischia fece la stessa cosa, tant'è vero che venne espulso proprio per questa sua condotta provocatoria e scorretta che tenne. Ma ripeto, perciò dico io, è sempre questo ragazzo, io dico sempre cioè io non riesco a comprendere come alcuni calciatori che prendono degli stipendi importanti non riescono ad avere un comportamento professionale ad esempio per gli altri giovani, perché onestamente è inammissibile. Va benissimo, caro Presidente, noi la ringraziamo per la disponibilità. Grazie di tutto. Spero insomma di festeggiare il vostro trionfo. Speriamo la ringraziamo, bene, Presidente, grazie, speriamo bene. Grazie, buona serata, arrivederci, buona serata. Ero curioso quindi di sapere di questo piccio. Ogni tanto faccio cose buone. Ragazzi, una cosa importante, giovedì volevo ricordarlo, alle ore 21 facciamo una riunione. Ivan, ma è mai possibile? Quando parli tu mi devi sempre interrompere. Qualcuno dice in chat, ma questo secondo voi è un campionato regolare, punto interrogativo. Regolarissimo. L'avvocato Barbiero vi dice niente. L'avvocato Barbiero è regolarissimo. Se non mi sbaglio, questa è una cosa con lei, non me la sto inventando io, l'ho letta proprio su internet, è una persona che è di Martina Franca, è una delle cariche più autorevoli, più in vista di tutta la Serie D. Guarda caso sta... Fa che l'avvocato Barbiero adesso che sta a telefonare. Abbiamo una telefonata, vediamo se l'avvocato... Hai giocato a quello Alberto Morelle? Chi è? Vediamo. Nunzio. Abbiamo un'altra graditissima telefonata, un nostro grande amico, nonché grandissimo tifoso, Nunzio. Buonasera, Nunzio. Forte e chiaro, Nunzio, tu ci senti? Sì, no, volevo dire una cosa, fate una colletta perché... Che è successo? Qualcosa di soldi, perché visto che sono l'unico ischitano che mi chiama. Ah, veramente? Hai ragione, ci ha chiamato... Chiamano dall'altra parte del mondo e da Ischia nessuno si sente da Zavitteria. No, ma poi no, non chiamano e poi sono sempre degli acidi critici di tutto, perché hanno sempre da dire, magari la trasmissione non è buttata bene. Ma che ce ne fu... voglio fare polemiche, ragazzi. Poi nessuno chiama. Fare polemiche, Ivan, rilassati. Per Angelo che dice vicino a me non fa polemiche, è un bel sperare lui invece che la usa la camomilla, rilassati. Dinunzio, allora stai sereno, com'è la situazione? Ivan, stai sereno. Ma penso molto bene, le notizie che arrivano dai media sono oltre le più rose previsioni. Chi è un media tu, Nunzio? Il campo, Nunzio sta ancora avvicinato per questo progetto del campo calcio, perché anche Nunzio sarà coinvolto in questo progetto. Ah sì, progetto importante. Progetto importante. Progetto importante, certamente. Senti, Nunzio, giovedì vieni. alla riunione. Giovedì ci sarai alla riunione perché dobbiamo. Non so ancora niente. Lo, lo stiamo comunicando ufficialmente. Ci interrompe sempre. Alle 22:10:03 secondi. Alle 9 la facciamo, Ciro. Alle 22:10 ti sto comunicando ufficialmente che giovedì sera avremo una riunione, va bene, Nunzio? Sì, dove? Alla ragazzi del muretto di, dei pilastri. Ai pilastri, sul muretto dei pilastri la facciamo. Nel futuro Marina Slot. Futuro Marina Slot ai pilastri, yes. Praticamente. Sai dove stanno i pilastri? Dove sta Ischiapani praticamente. Bravo, sta guadagnando un sacco di pubblicità, rimane a passare poco, sì, a piena così sordo. Potesse qualche panino ci guasto. Sì, senti, Nunzio, un tuo giudizio sulla gara di domenica allora? Questo 3-1 Real Nocera. La gara in casa? No, vabbè, no, la casa... no, a Piscinola. Domenica abbiamo giocato. No, la gara, diciamo, domenica scorsa. Sì, 48 ore fa, non... domenica scorsa, beh, yes. Una gara che l'Ischia ha vinto, secondo me. Tranquillamente. Senza avere nessun problema, cioè, a parte quell'infortunio del gol, che è stato un infortunio, forse stavamo ancora soltanto per il 2-0. Che erano già infilati, però poi per il resto non mi sembra che abbiamo avuto problemi particolari, non sembra che il nostro portiere ha fatto interventi particolari, una gara vinta quasi tranquillamente con una bella prova di forza, secondo me. Capito. Bene, non io penso che se tutto va bene domenica vincendo con Grottaglie facciamo 4 punti. Recuperiamo sul Martina, non dopo qualche altra cosina, penso. Senti, Nunzio, tra non credo che il Martina vince un'altra partita in casa, a meno che non la fanno vincere come hanno fatto con l'Inter Napoli. Nunzio, tra poco avremo in linea Peppe Ausillo. Hai qualche domanda per lui? Peppe Ausillo. Peppe Ausillo, mi fa piacere che sia sbloccato, perché si è sbloccato, aspettavamo i suoi gol, perché l'anno scorso a Pomigliano ne ha fatti parecchi. Pure a Ischia fece una punizione. Ci ha messo un po' di tempo per iniziare a segnare, la fascia di capitano porta bene, dai, meglio tardi che mai. Magari da qui alla fine del campionato mi farà qualcun altro decisivo. Brava, a finire che fa i gol pochi ma buoni, e i gol decisivi, quelli sono importanti. L'importante è quello poi è il finale del campionato, le ultime 7-8 partite che ormai si decide. I centrocampisti più forti fanno sempre pochi gol ma buoni, come me ad esempio, eh? niente ragazzi, questo fischi. Non penso che, anche se c'è qualcosa, diciamo, che la Lega, gli arbitri, magari Autori Martini, non penso che la possano fare proprio praticamente, proprio sporca tutte le partite a aiutarli. Penso che qualche partita devono anche vincerla da su. Pensiamo a noi, non li consideriamo proprio più. Pensiamo a noi, pensiamo a noi. Che tra 60 giorni a quest'ora dobbiamo essere noi a festeggiare, basta, non voglio parlare più. Ok, Nunzio. Dai, ti salutiamo, Nunzio. Okay, grazie, ciao, per la telefonata. Ti saluta Pierangelo, che si è alzato un attimo. Ti saluta Pierangelo. Ciao, Nunzio. Ciao, Nunzio. Piera, ti puoi sedere, Pierangelo? Scusami. Pierangelo sta chattando con i suoi numerosi fan sulla chat, fan page. Sulle varie chat. Milan quando sta, ragazzi? Non si sa. 3-0. Ho capito. È Benfica vince 1-0. Ah, è bello Benfica. Sì, Piera, allora come la vedi la partita domenica prossima? È una partita da... tutte le partite vanno giocate, speriamo bene, insomma, di dover... Diciamo di queste 9 partite, qual è quella che tra tutte... Quella di Caserta è quella che secondo te è la più insidiosa? Secondo me sì, perché comunque è sempre un derby. La Sarnese invece? La Sarnese l'abbiamo in casa, noi bene o male le squadre forti in casa le abbiamo tutte quante. Dovremmo avere Peppe Ausillo. Buonasera, ciao, Peppe. Buonasera. Buonasera, ex capitano. E complimenti per il gol. Grazie. Allora Peppe, com'è l'ambiente tra voi dopo questo 3-1? Insomma, già siamo pronti per la gara di domenica, sempre contro difficile contro il Grottaglie. L'ambiente è tranquillo come sempre. La cosa importante è che ne mancano 9 e non più 10, e che comunque dobbiamo pensare adesso già a domenica prossima, perché arriva un'altra squadra che si deve salvare, un'altra squadra affamata come quella di domenica. Però noi siamo più affamati di loro e quindi La cosa positiva è che comunque si è sbloccata finalmente, perché oltre alla quantità ha dato la qualità che tutti quanti aspettavamo, perché si sapeva e si conoscevano le caratteristiche di un giocatore come te, insomma, che comunque anche a Ischia, quando giocava con altre casacche, ha fatto gol, insomma, ed è un fattore positivo che magari adesso da qui a 9 partite ne potete, magari 9 gol sarebbe una cosa positiva. Sarebbe bellissimo. Ti volevo chiedere una cosa, secondo il mio modestissimo parere, cioè forse con giocando con Antonio De Rosa ti trovi molto più, diciamo, a tuo agio, nel senso che comunque ti senti meno responsabile forse della parte mediana del campo. No, ma guarda, la cosa è semplice. A parte del fatto che comunque i gol sono arrivati nel momento in cui abbiamo giocato con centrocampo a 3, sì. E giocare con un centrocampo a 3 è molto diverso che giocare a 2. Certo, sì, io certo. Ci aggiungo che qua ad Ischia più che un 4-4-2 facevamo un 4-2-4. Nella metà, se non più, delle partite ho giocato con un ragazzo 91 al mio fianco, con Trova e Savio sulle fasce, che sono quasi due attaccanti, quindi onestamente io ho nelle mie caratteristiche, ho nelle mie caratteristiche l'idea proprio di andare a chiudere la, di inserirmi, di fare gol, sì. Però onestamente pensavo molto di più, molto di più alla squadra e all'equilibrio che poteva avere, quindi mentalmente non ci pensavo più. Quello... l'esempio lampante è domenica, se vedete bene le immagini, io sono partito da dietro ma mi sono inserito perché nella mia testa è scattata la cosa di potermi inserire, perché ce n'erano altri due almeno che mi... Certo. Quando giochiamo a due non è possibile fare questo. Perché c'è più paura di coprire anziché di offendere. Questo è... sì. Poi per quanto riguarda il discorso di quantità e qualità, qualche assist è arrivato, capito, sono riuscito a farlo. Ma però... poi dobbiamo dire anche che il gol l'avevi fatto, se non ero, con il Brindisi. No, l'avevo fatto col Nardò. Con Nardò. Un'altra piena superiore, Kill, non si sa dove si è arrampicato per prendermela. Non so se vi ricordate quel pallonetto. No, ma il gol che poi era regolarissimo con Nardò. E poi il palo con l'Inter Napoli, miracolo. Ma la qualità tua assolutamente non si discute, per carità. No, non era per dire. Sei uno dei pilastri fondamentali di questa squadra, assolutamente. Diciamo, la mia domanda era proprio posta a questa cosa, che comunque giocando vicino a De Rosa, assolutamente, libera un po' di responsabilità, sicuramente. Assolutamente. Antonio è un giocatore che ti dà tantissima quantità, sì, poi sì. È un discorso da fare con cambio raggio, nel senso di giocare tante partite, cioè questo è un discorso che vale anche la pena di fare parlando in generale, c'è delle prove, qualche prova in colore che è arrivata, cioè facendo un campionato a vincere. Vabbè, ci sta in un annata e un momento... quando devi vincere tante partite, qualcuno deve vincere bene, ci sono tanti fattori da considerare. Vincere male, giocando male. Ciao, sono Ivan, scusa, ti volevo fare una domanda. Sì, dimmi. Tra Sarnese e Martina, qual è la squadra che comunque tu temi di più per la volata finale? Solo lì. Onestamente, io... la domanda è specifica. Però diciamo, poi... qual è la squadra che magari credi che ci possa dare più filo da torcere fino alla fine? Sì, guarda, qualitativamente sicuramente la Sarnese, però per mentalità, per quello che hanno in testa loro, per come loro sono abituati quando pensano di dover fare queste escalate da 3 anni che devono andare di nuovo in C, eccetera, eccetera, il Martina. Chiaramente nella mia testa penso che ho la Sarnese in casa, il Martina, cioè che ho la Sarnese in casa, quindi tra le due... diciamo la responsabilità è mia per quel che riguarda la Sarnese. Il Martina sta un punto dietro, purtroppo ce l'abbiamo affrontato, capito? Peppe, ti volevo fare un'altra domanda, sono Ciro, ti volevo fare un'altra domanda. Io ho notato che comunque quando affrontiamo le squadre di bassa classifica, noi vuoi o non vuoi comunque le affrontiamo in un altro modo, mentre con le squadre di, diciamo, quando sono partite importanti, partite col tipo Brindisi, tipo Casertana, tipo Turris, scendete in campo con tutt'altra mentalità. Cioè, questo è un fatto che non riuscite a scrollarvi di dosso, è solo una mia impressione o è così? Guarda, cioè, sembra una cosa, cioè, una risposta retorica, però noi, almeno io pure, cioè, cerchiamo di andare in campo sempre con la stessa mentalità. Sì, però, chiaro che, però... è chiaro che se c'è stata questa cosa, vuol dire che c'è una differenza, come hai rimarcato tu, c'è una differenza. Però, ragazzi, è naturale, pure il Napoli va a giocare in Champions. Stamattina ho letto una cosa di Cannavaro, dice: quando giochiamo in Champions, quando il mercoledì giochiamo a Manchester, la domenica giochiamo a Verona col Chievo, abbiamo un'altra attenzione differente, insomma. Sì, diciamo che comunque le motivazioni sono differenti. Sono differenti, però noi andiamo sempre comunque in campo. Comunque, scusami se ti interrompo, sì, comunque sì. Noi ci stiamo giocando un campionato, quindi adesso o che si chiama Oppido o che si chiama Sarnese, la motivazione deve essere sempre a mille, non deve essere, perché Inter Napoli insegna che comunque non possiamo, i bonus li abbiamo sprecati tutti, quindi adesso non possiamo più sbagliare. Anche se io devo dire che onestamente attualmente mi preoccuperei tantissimo se dovessi andare a giocare lì ad Oppido, perché è una squadra che comunque è affamata, si vuole salvare, c'è quello lì che fa bei gol, insomma, Adama. Loro numero 10 è un ottimo giocatore. Ma diciamo ci va al mattino tra le domeniche, quindi speriamo che ci possano queste parole si possano realizzare come profezia, insomma. Sì. Peppe, tu che pensi? Il Francavilla punterà ai playoff? Ahimè, sono 6 anni che faccio questo girone. Puntualmente Francavilla puntualmente fa un grande girone di andata e una chiave il girone di ritorno. Chissà perché l'Asic si scorda il girone di ritorno. È una piazza proprio dove la gente va per stare tranquilli, ragazzi. Perché vanno là. Vegetare a vita in questa categoria. La società paga, loro sono tranquilli. Secondo me sono convinto che i playoff non li vogliono fare, perché non si vogliono proprio trarre là a stare, perché l'ansia può stare, quindi spero di andare via quanto prima possibile, per cui io non mi aspetto niente onestamente la domenica. Sicuramente la conoscendo l'amico nostro Lasic, che diciamo qualche anno fa regalò una partita alla Sibilla e ci condannò personalmente, io da tifoso dell'Ischia ricordo quell'episodio in maniera totalmente negativa, tant'è vero che ci condannò agli spareggi e quando lui vinceva il primo Demonese e finì la partita 3-1, insomma, questo. Speriamo che possa smentirci, ma nessuno spera su questo tipo di partita, insomma. Noi dobbiamo sperare solo di il destino è dobbiamo nelle nostre fare mani, quello che dobbiamo fare, sì, sicuramente. Vabbè, è chiaro, il destino è nelle nostre mani, però noi abbiamo comunque delle partite a giocare fuori casa, eccetera, quindi io onestamente, ragazzi, la giocherò con una partita alla volta. Secondo me la cosa migliore da fare. So che tu sei, se non erro, sei laureato di scienze motorie, vero? Sì, sono quasi come... anche specializzato. Ecco, quindi stai parlando con un collega. Ecco, io dico, come vedi tu la condizione fisica piano piano sta venendo fuori rispetto a qualche periodo fa, insomma, anche il Colano si è ripreso in maniera positiva, ha una qualità anche di corsa differente rispetto a tre scatti in meno che faceva volte. Cioè, è una cosa tangibile o diciamo parliamo bene di Ercolano, che di Ercolano. No, assolutamente, ma noi Peppe, quando è venuto il Colano a Rischio, io sono stato l'uomo più contento del mondo, perché io lo conosco da Cava dei Tirreni quando giocava con Schetta. Io l'ho detto anche a lui. Io l'anno prima l'ho avuto, anche l'anno di Cava, prima di Cava, quando aveva avuto il suo esplo, veramente eravamo compagno di squadra a Sapri, sì. Quindi più di tutti lo conoscevo io, diciamo, come giocatore. Proprio interregionale, poi è normale, a Cava l'hanno conosciuto tutti, diciamo, ma io me lo ricordo, lui e Schetter hanno fatto la differenza, però quello che dicevo io è proprio la qualità a livello di allenamenti specifici, come vi sentite voi? No, vabbè, ma comunque lavoriamo con una persona che comunque ha fatto calcio ad altissimi livelli ed è chiaro, ed è una che persona molto preparata, sicuramente preparata, quindi lavoriamo bene e si vede onestamente, perché grossi cali non ne abbiamo avuto. Può capitare, ragazzi, la partita in cui sembra che gli avversari vanno prima sul pallone, arrivano prima sul pallone, la solita cosa che si dice, arrivano prima pure perché ci vogliono arrivare e tu ci vuoi arrivare di meno, perché certo. No, ma pure perché tu ci vuoi arrivare, ma purtroppo mentalmente non riesci ad arrivarci. Bra, giornata è sempre mentale la cosa, ci sono tantissime domanda per Peppe dall'amico Maurizio, ti chiede se voi sentite la pressione della piazza, se la sentite una cosa, diciamo, come dice Mandragora, insomma. Come dice il mister Mandragora, se diciamo, beh, questa pressione della piazza è così. sarebbe da ipocriti dire che comunque qui non c'è una grande fame di calcio. Cioè la fame di calcio la avvertiamo nei momenti belli, come è stato per esempio martedì l'altro, dopo Torre, l'avverti pure quando purtroppo Parigi una partita che non è successo niente, perché può capitare. È chiaro che c'è qualcosa che ti fa pensare che c'è troppa pressione, eccetera, però comunque poi voglio dire, cioè, c'è stato per tutto. Qui chiaramente essendoci maggiore voglia di emergere, eccetera, c'è un po' di pressione in più, così come c'è grande festa quando le cose vanno bene. Sì, sì, sono d'accordo con te. Comunque noi siamo un pochettino esasperati, qualche volta uno esagera, ma lo fa sempre in buona fede, mai rispetto al singolo e mai rispetto a mai nella prevenzione non ci riguarda e non ci tocca proprio essere prevenuti. Chiaro che dispiace sentire qualcosa su qualcuno che magari ha fatto bene fino adesso nell'ambito della sua carriera, poi sembra non valere più niente, però comunque cioè, ci sta, voglio dire, cioè, fa parte del gioco. Comunque uno viene a Ischia, io sono venuto a Ischia e sapevo che non era la stessa cosa che stare a Pianura, tu rispetto per il Pianura, no? Sì, sono due Pianura. Così come però quando entravo a Pianura mi giravo e non veniva nessuno, qui quando entro... Comunque, sotto questo purtroppo aspetto... 1.500 di domenica, speravo di più, però... Ecco, mi hai tolto la domanda, cioè ti aspettavi... Sì, mi aspetto di più, Ma adesso tu vedrai, andando avanti, speriamo che tutto rimane così, si esce da marzo, quindi si va incontro ad aprile, Ischia fiorisce totalmente e c'è una voglia totalmente differente, per i giocatori è un pochettino pericolosa la cosa, perché qua, oltre a fiorire la natura, fioriscono anche altre cose, quindi... speriamo che diventa molto più piacevole stare a Ischia e sicuramente venire al campo col sole è totalmente differente. Io l'ho sempre detto che la cosa che è l'orario delle 14:30 che noi c'è, infatti se noi giocassimo alle 15 sicuramente comunque continuiamo a fare questi risultati e vedrà che saremo pure in 5.000, guarda. Sempre pure giusto poi a un certo punto. No, vabbè, comunque ci sono state 2-3 partite che da pelle d'oca, onestamente. Però, 2-3, cioè, forse qualcuno in più, però comunque cioè non è poco, comunque 1.200, 1.300, 1.400 non so pochi. No, però dovremmo essere di più, questo sicuramente. Perché comunque mo stiamo là, hai capito, c'è bisogno, ragazzi, c'è bisogno, perché non è il primo campionato che faccio di questa categoria. Adesso vedrai con la Sarnese, Peppe, sperando di tornare insomma da Casarano, con se dovesse succedere quello che vedrai con la Sarnese che cosa può essere. Speriamo di tornare già domenica prima, Grottaglio. Poi dopo... pensiamo sempre prima alla partita che ci rispetta, insomma. Va bene Peppe, noi ti ringraziamo gentilissimo e speriamo che ritorni al gol domenica, che ci fai vedere il Peppe Osiello goleador, insomma. E basta, Luca, rimane a mattina e tu preparatore. Tutta forza. Grazie, buona serata, ciao. Va bene. Buonasera, ciao Peppe. Ciao, buonasera. Ciao. Sì, allora... insomma ci siamo un pochettino rallentati, sai? Ivan dici vera, dici, ma parla a parola tu, vera, non ti preoccupare, parla. Niente ragazzi, tutto a posto, penso che diciamo giustamente a Osiello, diciamo che a Osiello c'è una telefonata, no, diceva che praticamente i 1.700 7.800 spettatori si aspettavano giustamente. Dobbiamo fare almeno 2.000 e qualcosa, Nicola, sicuramente. Buonasera. Qual è il 2000? 1.700. Pronto? Buonasera, Nico. Detto buonasera. Ciao, buonasera a tutti, ragazzi. Voi come al solito riuscite a trasformare una serata anonima di martedì in un martedì calcistico. Martedì grasso. Sentite, volevo dire una cosa. Io ho letto su Facebook circa lo stadio, tante polemiche, è chiaro che ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, però guardate, non è mai stato fatto niente. Sono state sempre dette tante parole, tantissime, ma fatti pochissimi. Adesso che abbiamo una società che sta cercando di fare qualcosa, con un sindaco che riesce ad appoggiare la società ed è pronto a mettersi anche diciamo in gioco con quello che vogliono fare, ci sono le polemiche perché si vuole fare. Ma da che mondo è mondo? È meglio fare, magari si sbaglia pure, che non fare. Sicuramente, sicuramente. No, ma il discorso è detto quello che poi sapete chi parla? Parla quelli che allo stadio manco ci vengono, cioè quella è la mia cosa che cioè non se gli vai a chiedere la formazione pensassero ad andare a protestare contro andiamo lì, basta, lasciamo stare queste cose, che queste non devono rientrare poi in una condizione sociale, perché l'aspetto civico è l'aliscafo, è l'ospedale, l'aspetto civico è questo qua. Condivido in pieno con allora lasciamo hai ragione Nicola, è bravissima, hai ragione, perché io lo volevo sottolineare questo qua. L'aspetto civico non lo venite a scaricare, fate vedere la vostra attività politica con l'Ischia Calcio, fate la vostra attività politica servendo realmente alla condizione civica. Oggi io scusami, glielo dicevo prima a Ivan, no, oggi ha scritto un certo Diego, non ricordo il cognome, che praticamente sarebbe il webmaster di Ali Lauro, cioè che parlava proprio lui. Io infatti gliel'ho scritto, Gitto, ma parlate proprio voi, che non fate altro usurpate, è differente. Dell'ischitano che è costretto praticamente a, cioè che voi siete costretti a mangiare sulle nostre spalle non mettete niente. Ma poi le persone che hanno il potere di poter decidere, nel momento in cui si presentano questi personaggi che rappresentano anche queste compagnie e vengono mandate per ben due volte a fare i politici, e queste persone non mandati dagli ischitani a fare i politici si rivoltano contro la stessa forza elettorale, questa è la cosa lampante, quindi lasciamo stare il campo, pregherei tutti, non voglio fare nome e cognome, però se si dovesse ripetere io mi metto con la lista in mano e tutti quelli coloro che scrivono contro il calcio, contro il centro commerciale, li nomino tutti, allora, fatevi i fatti vostri, andate a fare le battaglie civiche in altro luogo dove più compete. Noi stiamo facendo una battaglia sportiva per salire dove ci compete. Se poi loro vogliono fare, caro Nicola, se erano persone che ci tenevano tanto quando fummo defraudati dalla Covisoc nel 98, venivano lì allora facevano gli indignati, perché noi abbiamo perso un titolo sportivo di serie C1 che oggi vale oro in maniera totalmente gratuita e inavvisata, cioè noi non abbiamo avuto neanche la possibilità di difenderci. Ricordo a questi signori, ma dove stavano questi signori? Dove? No Piera, ma io mi incazzo tanto, sai perché? Noi cerchiamo, voi insomma, tutti i tifosi, quelli che stanno sempre allo stadio, cerchiamo di stare vicino alla squadra, di non esasperare l'ambiente, e poi succedono queste discussioni sterili e inutili. No, io sono d'accordo con te Nicole, pienamente d'accordo. Fortunatamente hai fatto la telefonata, che hai evidenziato un dato veramente dolente di queste cose, perché cioè non è possibile dover tutte le volte venire a contestare qualcosa. Allora si parla dell'Ischia e fa il Manderbus e non va bene, come se la struttura comunale, solo perché si tratta dell'Ischia del campo di calcio, dovesse essere praticamente un ricettacolo di immondizia. Parli degli spogliatoi dell'acqua calda, ci sono altri problemi, e gli altri problemi li vogliamo sempre risolvere ai danni di una comunità sportiva che magari ci tiene a questa cosa. Io non ho capito, questo è il discorso, non c'è rispetto della comunità sportiva e del tifoso dell'Ischia. Fatevi un pochettino i cazzi vostri. Non c'è nessuno che va a fare i casini e va a criticare, in questo siamo bravi. Nicola, sì. Mi senti? L'anno scorso quando si fece la... Scusami, non ti sento bene. Nicola, ora mi senti? Sì, sì. Dicevo, l'anno scorso quando si fece la manifestazione a Rizzoli, sì, per scongiurare la chiusura, non mi ricordo, era proprio perché mancava il personale. Sai quanti eravamo? Era 26 persone, 24-25 persone eravamo. Allora le battaglie civiche le volete fare con l'Ischia, le volete fare. Esattamente. Hai capito? Quindi il discorso è sempre quello. Sentite ragazzi, però Nicola, a proposito di battaglie civiche, vedo un post di Savarese. L'ho letto anch'io, sì. Il fatto dello striscione. Quello veramente sarebbe da condividere, da sottoscrivere, insomma. Ma ne parliamo un po' in settimana e vediamo. Perché va bene. Vabbè, ragazzi, un abbraccio. Ciao Nico, buona serata. Ciao Nico. Ciao Nico. E allora, sì, Ivan, volevo dire questa cosa qui, che effettivamente Nicola ha fatto benissimo a ricordarmi. Mi hanno un pochettino veramente disgustato questi qua, che escono sempre come dei soloni a predicare il verbo, come se tutti quanti avessero bisogno della parola. parola del Vangelo, arrivano e predicano, è sempre a discapito, ripeto, di una comunità sportiva che magari ci tiene a determinate cose, possono sembrare cose futili per voi, per noi, a me onestamente, cioè, se io poi se io dovessi esprimere il mio pensiero rispetto a quello che è l'abusivismo, è la, cioè vogliamo aprire, vogliamo stendiamo un velo pietoso, perché se io dovessi parlare in maniera equa ed onesta rispetto a quello che è successo, rispetto alla nostra non volontà di salvaguardare il territorio, dovremmo solo che vergognarci qui a Ischia, perché lo ripeto 100.000 volte, siamo la causa dei nostri mali, perché qui a Ischia si è soltanto pensato a mettere le cannucce nell'acqua minerale a succhiare come le zanzare succhiano il sangue, questo è, e non si è restituito niente, perché il parassita non restituisce, il parassita essendo parassita prende solamente, ed è la stessa cosa, perché qui non c'è depuratore, qui non c'è un servizio fognaro buono, qualcuno che cerca di fare qualcosa di buono viene immediatamente, che cosa si deve andare ad appigliare sull'Ischia calcio e su? Ma smettetela una buona volta, ma fate le persone serie. Ma poi il discorso che gli dicevo pure a Ivan, no, ma mettiamo il caso che questo progetto possa, io mi auguro fermamente, mi auguro che questo insomma progetto vada in porto, cioè non ci rendiamo conto che quante opportunità di lavoro potrebbe venire a creare, cioè noi qua Piera, tu sei un lavoratore d'albergo come lo è Ivan, cioè vuoi lavorare, specialmente tu lavori i sei mesi giusto sì. Ma parecchi schitani stanno arrivando a non più. Ma questa è la cosa da dover sottolineare. Allora, ma facciamole su queste le battaglie civiche. Allora invece di dire se questi veramente hanno intenzione di creare un'area commerciale, cioè noi pensiamo anche al lato positivo che quello di qual è il problema? Di posti di lavoro. Il problema non è, cioè, anzi dobbiamo essere contenti. Dobbiamo essere proprio contenti che si crea occupazione. Ma dovete finire di fare, perché allora si parla di cementificazione nella zona, cementificazione di niente, allora, cioè, a prescindere che comunque, come dicevo pure prima, cioè non sono bonificati, quale cementificazione, ma che stanno dicendo, quindi l'area di fondo Bosso è un'area periferica che comunque già è stata, cioè è stato oggetto di quindi non si fa cementificare niente. Vada. Poi è un rifacimento dello stato, cioè, ma anche i somali quando qualche amico nostro qualche tempo fa gli fece le strade, dicevano che avevano sventrato un paese, le bonifiche se le si vuole guardare politicamente le si guarda come cementificazione, se le vuole guardare con un occhio meno critico e un pochettino più civile, si parla di bonifica. Il discorso che si parla di questo progetto voi è anche quello che il nome di Ischia deve diventare sempre più, diciamo, in, perché comunque si parla di, specialmente d'estate, di far venire squadre nazionali, internazionali di grido, per far sì che comunque Ciro, tu questo discorso io sono pienamente d'accordo con te e sai che ci fondi una parte per te, ma parlare con una persona che vuole fare il filosofo da tastiera, vabbè, ma no, no, ma è che la puoi dire, no, c'è invece in casa da parlare, sì, sai perché no. Si deve parlare, perché questi qua una buona volta, le ripeto, noi dobbiamo batterci, non per far capire, perché la nostra fede attuale sportiva è questa, può essere futile per lui, può essere futile per l'altro, per noi non è futile. Io oggi ho chiesto, non voglio fare nomi, ho chiesto a questo signore, ho detto, ma allo stadio vieni? Ha detto no. No. Ciro, lo sai che dall'8 marzo le corse della Lauro saranno soltanto dalle 7:30? Allora, che stiamo parlando? Voi pensate alla cementificazione? Io facessi anche la cementificazione. Cioè, il discorso è questo qua, sì, non so se ci rendiamo conto. Ma lo so. Cioè, vi rendete conto che arbitrare in maniera arbitraria, ma chi viene a scrivere? Stolgono le corse da un giorno all'altro, con la scusa questo lo sto dicendo da quando è iniziato questa trasmissione, lo dico adesso, con la scusa del bacino. Tutte le nasse del bacino, bella e buona, arriva novembre, tu quando vanno nel bacino, quando è il mese di aprile che c'è da scendere il parassita? La proboscide pronta a succhiare la zanzara, questo è il discorso che noi dobbiamo, non cerchiamo di farvi, allora Ciro, fatti un conto, se è da fare il campo è la cementificazione, se è da fare lo scivolo da lì sopra che può decongestionare Porto Salvo, ma questo scivolo, ogni cosa di positivo Sì. Si fa il parcheggio a San Alessandro. Si fa la rotonda e nessuno rispetta la rotonda. E hanno ancora, sono due anni che c'è la rotonda, ancora non si è capito, come si usa. Perché non si vuole capire. Allora, il senso civico di preoccuparsi, di rendersi conto di questi triangolini, cosa significa? Allora, io vorrei sapere perché tutto questo poi deve sfociare nella critica al campo sportivo. Facitevi i fatti. Non ci venite al campo, lasciate fondo bosco, non c'è niente da cementificare perché lì già è cementificato, è stato espropriato, quindi fatevi fatti voi, se volete venire venite allo stadio, se non ci venite non ci interessa niente. E guardi chi parla, parlano sempre gente che ten, chi tena i casa affittati, chi tena, chi fa l'avvocato, chi fa l'alberghetto, chi fa... Noi, io tengo due lauree a differenza di qualcuno, e lavoro da quando ho 20 anni in albergo. Io non mi non chiedo niente a nessuno, non ho niente da chiedere a nessuno, non mi interessa chiedere niente a nessuno, però non voglio essere scocciato su qualche cosa a cui ci tengo. Allora, io mi batto per le battaglie per l'ospedale e ci vado, quindi non potete chiamarmi né filosofo né, perché io sono sempre per gli scavi trasportivi e ci vado, io sono sempre presente per la mia isola. Però onestamente, voi con quest'area da no global veramente ci avete un po' scocciato. Perché poi si cominciamo a parlare di tutto quello che c'è dietro queste cose, le varie cose, l'Afghanistan perché viene messo sotto, perché produce hashish, invece avreste da fare stare un pochettino zitti tutti quanti, pensate alle cose serie e lasciamo stare le cose futili, lasciamo stare il calcio che è un gioco. E questo, e con questo chiudo, quindi pregherei tutti coloro che hanno qualcosa da dire sul progetto, non, perlomeno non venite a dirlo sulla pagina di Rischio Calcio, tenetevelo sulla vostra bacheca. Questo è il discorso. Giustissimo, giustissimo. Ma scusate, insomma, scusate che cosa hai fatto? È una cosa che andava ottimo, detta, volevo ottimo, farlo io. Ottimo sfogo, ottimo. Ma che comunque, ha fatto Ivan? Comunque, niente, ragazzi. Mauro, tu li dici qualcosa? Mauro, c'è una cosa. Dice, ma Ivan di sfogo. No, Mauro a casa da. No, e comunque giustamente ha ragione Piera. Mauro, cosa volevi? Cosa... No, no, visto che sono nuovo questione stadio. Come la pensi tu? No, questo progetto l'hai visto? Il progetto, tra virgolette, è positivo perché porta comunque un ampliamento dello stadio, c'è la possibilità di ospitare nuovi tifosi, nuovi fondi, sperando sempre nel buon senso di chi comanda, deve amministrare. Chi amministra l'Ischia Calcio, che la lista degli accrediti non aumenta ma diminuisce, anche se ci sono posti in più. Però visto questo punto di vista, Pierangelo Pesce può dove si andrà a sedere, visto che gli stinti stanno al sole, le due curve saranno al sole. Pierangelo può dove si vedrà. Volevo dire che ci sta uno che dicevo bravo, io sono d'accordo, che non sono l'unica, ci sarebbe tantissimo da parlare, le persone che hanno rovinato l'isola. Ma noi abbiamo la possibilità di correre di 65 giorni l'anno, invece si lavora soltanto 6 mesi perché c'è qualcuno che ha comodità a fare questa cosa qui. Parliamo di queste cose qui invece di pensare allo stadio. Lo stadio potrebbe provocare anche, procurare anche posti di lavoro. Lasciatevi fatevi fatti vostri. Parliamo di cose serie, non pensiamo allo stadio, perché qua c'è stato qualcuno che ha fatto anche le battaglie, i banchi di scuola, no, l'erba del Mazzella, sì, cioè cose di questo genere, ma a chi interessano più? Ma come se i mali del mondo tutti al Mazzella, insomma. Ma che cos'è? La supernova, una supernova, un buco nero, insomma. Smettiamo, facciamo le persone serie. Fate le persone, andate cerchiamo di lavorare 365 giorni l'anno tutti quanti. Ha fatto bene Andrea Damba a fare l'articolo oggi, le Mauritius e l'isola, l'isola A e l'isola B, non so se avete letto quella storia, dove alle Mauritius si sono ribellati per i costi della benzina che è di qualche centesimo inferiore a noi, che hanno un salario di 18.000 euro pro capite, a differenza di noi che siamo 16.000 euro. Loro hanno fatto una ribellione contro i francesi che li tenevano, secondo loro, assediati da questo tipo di condizione sociale. E noi qui, che siamo a 2.000 euro pro capite in meno, paghiamo quasi 2 euro di benzina, siamo ancora lì a fare i filosofi sull'erba, sull'ermazzino, ma la tazza a padre tutto quanto. No, io l'erba nel Mazzella non l'ho ancora provata, però a breve sta seccando. La metto con la mia macchinetta, andrò pure a provare. Vabbè comunque... dai, ragazzi, noi chiudiamo anche per questa volta. Chiudiamo con questo. Ci chiamo subito. Chiudiamo con un brano che adesso lancerà Mauro Cozzolino. Noi ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato anche stasera. crediamo di sentirci martedì prossimo. Comunque non perché crediamo, sicuramente. Siamo sempre col condizionale. No, sicuramente, martedì saremo qui a parlare di una nuova vittoria. Speriamo di festeggiare un'altra vittoria, magari qualche passo falso delle nostre della comunque non molleremo Ivan, mai. Il Martina Franca acquistato per il 6 maggio Ronaldo. Addirittura, per l'ultimo giorno per festeggiare? No, no, no, per piangere. Era il 5 maggio. Allora era il 5 maggio. Ma c'è quest'anno è futuro, quest'anno c'è il 29 di febbraio. Ah, ecco, l'anno bisestino. Ok. Vabbè, aspetta, voglio dire qualcosa per Angelo. Aspetta, è andato. Allora la sigla dovrebbe a questo punto. Se speriamo che c'è. Allora hai trovato l'ispirazione in Dubagni, vero? No, soffiare il naso. Sì, va bene, ragazzi, grazie a tutti, buonanotte a tutti. Aspetta, fammi dice Ivan. Allora, hai preso stasera, mannaggia. Comunque, ma neanche stasera Aldo Marina. Filo societario. Benissimo, allora ecco qua per tutti coloro che hanno a cuore l'erba del Mazzella. Olè, vai!